Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Matteo Salvini, 40 anni, milanese, convivente con due figli, giornalista, parlamentare ed europarlamentare, laureando in storia, dopo 16 anni interrompe gli studi perché dice arriverà prima la padania libera della mia laurea. Nella Lega Nord dal 90 lavora come cronista al giornale e dice un'esperienza affascinante. Capolista nel Parlamento della Padania della corrente dei comunisti padani, ottiene 5 seggi. Dal 15 dicembre del 2013, dopo Bossi e Maroni, è il terzo segretario federale della Lega Nord. Allora, onorevole Salvini, da segretario nazionale oggi si sente ancora un po' comunista padano? Sì. Perché? Rivoluzionario, non moderato, non sono assolutamente moderato. Il tema dell'ambiente è un tema su cui mi sono sempre battuto e sempre mi batterò. Senta, intanto però, da segretario adesso deve affrontare il problema di Cota, che in Piemonte è stato rinviato a giudizio per peculato. La presidente Bresso invece è stata archiviata. Sono due modi diversi di gestire il potere? Sono due modi diversi di fare pseudogiustizia e magistratura. Cioè, si dimetterà Cota oppure no? Spero di no, perché ha lavorato bene e spero che possa continuare a lavorare bene. Ma lei la fiducia della magistratura torinese che indaga ce l'ha oppure no? Non ha fiducia nella magistratura? No. Quindi è un complotto? No, però sono strabici. Cioè? Vedono molto bene da una parte e sono molto distratti dall'altra. Senta, intanto tra la Padania, il vostro giornale, e il ministro Chienge volano gli stracci, lo sanno tutti. Lei pensa davvero che la Padania ha il diritto di pubblicare l'agenda del ministro giorno per giorno? Assolutamente perché? Sì, e di perché? Tutti i ministri. Oggi pubblichiamo quella della Cancellieri, di Zanonato, perché sono uomini pubblici che fanno atti pubblici con stipendi pubblici. Di Berlusconi abbiamo letto di tutto e di più della vita pubblica e privata, non si vede perché di altri ministri non si possa fare altrettanto. Senta, Renzi ieri ha invitato i militanti del PD a fare da scorta alla Chienge. Prevediamo uno scontro tra militanti della Lega e quelli del PD? Assolutamente no, in 20 anni mai un solo episodio di violenza riconducibile a un militante della Lega, quindi la Chienge non ha bisogno di scorta. Quindi lei non ha paura che violenza? No. Chiami violenza. Noi ne contestiamo le idee, però tenendo giù le mani come da 20 anni a questa parte. Senta, comunque, sulla lotta contro l'abolizione della Bossi-Fini siete rimasti soli, avete occupato il Senato adesso. Perché? Per fare cosa? Cosa vuol dire occupare il Senato? Vuol dire che tutta Europa sta andando verso un restringimento della possibilità di immigrare o di invadere. Se l'Italia va in senso contrario da sola... Ma perché il Senato? Ne parliamo poi dell'immigrazione. Perché il Senato sta provando una porcheria che si chiama svuota carceri. Lascio immaginare agli ascoltatori che cosa significa. Ecco, ma è occupando il Senato... Abbiamo rinviato, per 4 giorni l'approvazione di quello che è un insulto alle vittime dei furti, ad esempio. Senta... Vabbè, tutto insieme, ma si aspettava, non è detto che i furti li facciano solo loro, li fanno un po' tutti i furti. No, però escono di galera bianchi o neri, fanno uscire di galera demenziali sia che siano bianchi sia che siano neri. Ma si aspettava il voltafaccia dei 5 Stelle su questo tema? No, mi ha stupito e mi ha deluso, perché in campagna elettorale Grillo diceva stop all'immigrazione incontrollata, e invece la rete lo ha smentito. Ecco, a proposito della rete, sul tema dell'immigrazione, Grillo sembra aver perso il contatto col suo popolo della rete, può darsi solo in questo caso, però lo ha smentito. E non è che quel popolo è diverso da quello che si pretende di fare quando lo si vuole guidare? Sicuramente sì, la democrazia e la partecipazione è sempre al benvenuto, anch'io lo faccio quotidianamente su Facebook e su Twitter, però probabilmente Grillo ha idee che vengono da destra, ma ha un popolo e ha degli eletti che sono al 90% di sinistra. Ma è solo un errore di percorso o secondo lei è iniziato anche per Grillo una parabola discendente? Temo che sia la seconda, perché col vaffanculo i voti li prendi per una volta, non per due volte, non per tre volte. Questo vale per tutti. Vale per tutti e l'abbiamo pagata anche noi. Ecco, lei è un politico di professione, onorevole Salvini. È un bene essere politici di professione. Io adoro la politica. Se domani mi passasse la voglia o non mi rieleggessero, torno a fare il mio lavoro, che è quello di giornalista. Ecco, ma per fare politica, per lei cosa significa? Una passione che ha radici dove? Ha radici da quando avevo 16 anni e uscivo di notte con la bicicletta a attaccare manifesti con la colla sporcandomi i vestiti. Quindi è una passione, non una carriera. Assolutamente no. Chi vive solo di politica e non ha nulla da fare al di là della politica è ricattabile. Quando uno è ricattabile è finito. Senta, lei è un europarlamentare contro questa Europa e contro questo euro. Cioè, un euroscettico, mi dice in due parole cosa vuol dire contro questa Europa? Che credo in un'altra Europa, che non è fondata sullo spread, sul rating, sulla banca, sui tetti del 3%, sui vincoli di Lisbona, ma è fondata sul lavoro e sulle identità. E quindi voglio un'altra Europa, non sono contro l'Europa, ma voglio un'altra Europa. Ecco, ma perché allora non si dimette, visto che intanto è in questo Europa? È la battaglia da dove la fai? È la battaglia per un'altra Europa, se non la fai in Europa... Cioè, per secondo un altro... lei nell'Europarlamento si fa la battaglia per un'altra Europa? Assolutamente sì, e conto che a maggio arriveranno dei pullman di eletti che non contro l'Europa, la Le Pen non è contro l'Europa, ma dice prima la Francia. Senta... Nell'Europarlamento, lei che battaglia ha fatto fin oggi di cui si sente fiero? Una di cui si è parlato pochissimo, però per la celiachia. Ah. Non fa i titoli dei giornali, però una delle direttive demenziali rischia di mettere a repentaglio la salute di milioni di malati di celiachia perché mette i loro alimenti sul livello di quelli dei vegetariani, che ne so, degli alimenti normali. Mentre ha vinto? Gli alimenti... A metà, perché abbiamo limitato i danni, anche se l'Europa, nel nome del libero mercato, appunto, mette a rischio la salute di tanta gente. Non so quanti celiaci ci siano all'ascolto, però sappiano che con la loro associazione la battaglia l'abbiamo fatta e la faremo. Senta, cosa dice di lei all'Europarlamento un suo collega belga di sinistra, Marc Tarabella? Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula, perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, Heidi Ruhl, Malcolm Harbour, Dennis De Jong, tutti shadow relatore come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io. Vabbè, adesso è in radio, non in TV. Cosa risponde? Che sono palle, fortunatamente i dati di presenza sono pubblici, quindi 91% di attivismo parlamentare, 80% di presenza alle votazioni, 250 interventi, interrogazioni, documenti. Questo è incazzato perché io ho detto che la direttiva su cui ha lavorato per un anno e mezzo è una porcheria che complicherà la vita agli artigiani e agli imprenditori, se ne faccia una ragione. Lavorato per un anno e mezzo su una porcheria. Però io... A onor del vero dico che noi abbiamo scoperto che è vero che la produttività di Salvini è del 91%, sì, come 90, dice lei, 90, non importa. La produttività di Tarabella nello stesso sito, che dà dati ufficiali, è del 738,3. Quindi diciamo a me un basta po' essere più vicino alta. Al 100%. Però se uno lavora un anno e mezzo per produrre una direttiva sugli appalti che incasinerà, e qua siamo sulla radio di Confindustria, dove imprenditori artigiani, ragazzi, questa direttiva che arriva da Bruxelles incasinerà la vostra vita, nuovi moduli, nuova burocrazia, nuove rotture di palle. Stiamo parlando dei dati che ha dato. Lei si posiziona al 628esimo posto, ha una percentuale di partecipazione del 76,97. Tarabella, che lo critica, ce l'ha del 93, si posiziona al 110. Quindi diciamo... qualche problema. Precisazione. Però questi sono i dati da cui quelli ufficiali. Quando non ci sei non ti pagano. Diciamo che non ruba i soldi. Quando in Europa, non ci sei bene. Non ti pagano. Va bene. Molto però, semplicemente. Devo dire che l'europarlamentare italiana più virtuosa in assoluto nel Parlamento europeo è Mara Bizzotto della Lega Nord. Hai visto? Quindi lei va poco. Hai ma visto? Insomma, non la pagano, ma insomma. Beh, poco, allora. L'80%, insomma. No. Dai. No, ha capito, no? No, dico 77% di presenze. Sì. A casa mia 628esimo posto in classifica. Vabbè, si può migliorare. Comunque su matteosalvini.eu faccio pubblicità al sito, sono tutto. No, no, ma appunto, ci sono tutte le mie produzioni. Un fact checking vero, giusto. Fatto in diretta. Senta, quanto guadagna come europarlamentare? 6.200 euro al mese, e poi in base alle presenze, alle partecipazioni. Quindi cosa poco, che secondo me diciamo di poco. No, poco. No, beh, dico le partecipazioni, visto che insomma. Ancora, beh, questo è opinabile. Allora, si ricandiderà in Europa lei? Penso di sì, perché la battaglia contro l'euro, soprattutto più che sull'Europa, contro l'euro che non è l'Europa, l'euro che è una moneta criminale, ha bisogno di coraggio e di energia. Quindi la faccio molto volentieri, anche se ci esporremo ad attacchi di ogni genere. Molti dicono che è criminale attaccare l'euro, quindi diciamo sarà una battaglia fra persone che si accusano di essere criminali reciprocamente. Però 12 anni di cura euro ci hanno portato in una situazione economica che lascio giudicare agli ascoltatori. E solo poi la faccio è solo colpa dell'euro? Non è solo colpa dell'euro, è colpa anche delle politiche. politiche interne degli stati anche nazionali. Anche perché la congiuntura mondiale mi pare che però sia... Però l'euro è come correre i 100 metri con gli scarponi da sci. Senta, lei ha incontrato Marine Le Pen, l'ha detto prima. Cosa avete deciso di fare insieme contro l'Europa, contro questa Europa? Per un'altra Europa, ma rivedere tutti i trattati. Ad esempio, rivedere tutti i vincoli sull'agricoltura, sul commercio, sul turismo, vincoli che stanno strozzando le nostre imprese. Ma la Francia e l'Italia non hanno gli stessi interessi sull'agricoltura, non credo. No, ormai sì, perché l'ultima politica agricola comune credo che hanno votato a Strasburgo porta i soldi tutti a est. No, ci rimettiamo ci rimettiamo come italiani, ci rimettiamo come francesi. E quindi l'Europa come la vede lei, come dovrebbe essere, in due parole? Fondata sul lavoro, non sulle direttive, sul lavoro, i camionisti, gli infermieri, i bagnini. Cioè politica, il ritorno dalla politica. Assolutamente, della politica. Scelte, non il tetto del 3% è un tetto da cretini. Beh, è un modello tendenziale, è diventato un vincolo perché ci sono i burocrati che lo interpretano in modo vincolato. Ci portano nel fosso. Senta, adesso la Lega comunque, lei ha un'impresa abbastanza disperata, ai minimi storici, è colpa di Bossi? No, è colpa di tutti. È colpa di tutti quando si perde, è merito di tutti quando si vince. Va bene. Bossi ha creato tutto, io non sarei qua con quello lei se non fosse partito. Senta, Bossi. Molti pensano però che Bossi ha cominciato a perdere, come dicevamo prima di Grillo, ha cominciato a perdere quando non ha capito che i 150, le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia in realtà erano sentiti e molto anche al nord. È vero? Che lì è un po' come l'andata al mare di Craxi. No, quella è forma. A noi viene rimproverato che non siamo riusciti a portare a casa il federalismo per 15 anni, è un rimprovero giusto. Dovevamo essere più efficaci, sono stati più furbi di noi. Dove ha cominciato allora? Dove ha cominciato a sbagliare Bossi? Quando a Roma sono stati più bravi di noi e quando ci hanno fregato il federalismo che era portata di mano. Però io insisto, ho seguito il presidente Napolitano, è stato un grande successo al nord. E voi invece la Lega non sapeva come fare. Adesso la metà dei comuni veneti vogliono un referendum per l'indipendenza. Vabbè, io sto parlando di quel momento. Cambia sempre in fretta l'aria. Senta, il rapporto con Berlusconi è stato vitale o mortale per la Lega? Nessuno dei due, è stato un rapporto di interesse che alla luce dei fatti ci ha portato meno di quanto avremmo voluto. E continua o no? Lo devo incontrare, quindi glielo so dire dopo l'incontro. No, mi dica adesso, lei so già. Per il momento mi interessa la Lega, mi interessa il Nord, mi interessa. Vabbè, andiamo da soli. Sembra un democristiano. No, guardi. E allora? Mi accusi di tutto fuori allora, di democristiano. Allora, con Berlusconi sì o no? No. Oh, che cosa resta di Bossi nella Lega di Salvini? La passione, la fatica, la piazza. E che cosa vorrebbe essere sicuro di aver imparato da lui? Non avere orari, non avere giorni, non avere pause e l'ascoltare. Perché in politica molti parlano. E io ritengo che sia più importante ascoltare che non parlare. Senta, Bossi in un'altra epoca è stato un re delle provocazioni. Roma ladrona, poi cioè che ci siete cascati. Perché? Nessuno è perfetto, tutto lì? Nessuno è perfetto e alla Lega non si perdona neanche un euro, giustamente, e quindi non mi interessa se gli altri fanno peggio e fanno di più. Senti. E quindi vediamo di... Penso che siamo ripartiti col piede giusto. Ma per esempio il Parlamento del Nord doveva cambiare tutto. Funziona sempre? No, finito, il Parlamento del Nord me lo porto con me la mattina quando mi alzo. Come perché esperienza. Io credo comunque che l'Italia sia un paese stupendo, ma solo se valorizza le differenze. Ma che cosa ha prodotto il Parlamento del Nord? Prodotto tante proposte di legge che adesso sono operative nelle regioni. Ad esempio sulla sanità, sul volontariato, sui genitori separati. Ecco, voi anche eravate, l'ha detto un po' prima... Avevate promesso la devolution insieme alla macro regione del nord, dovevano lasciare il segno, queste due parole chiave. I soldi più che dove il sono segno. Finiti? Vabbè, insomma, soldi, siamo venali, certo. Però. No, vabbè, però. Dove è finita? Secondo queste me sono parole chiave dove sono, sono attuali, ci arriviamo. Secondo me o l'Italia riconosce le peculiarità e soprattutto i quattrini chi li gestisce meglio. I campanili sono sempre stati la forza d'Italia da sempre, si è sempre saputo. Non è che bisogna fare un partito per i campanili. Sì, assolutamente, perché la Lombardia ogni anno, non i leghisti, i lombardi ogni anno pagano allo Stato 50 miliardi di euro in più rispetto a quello che torna indietro e non è possibile farlo per 60 anni. Senta, fino a quanto? Basta, dice. Basta così? Riequilibriamo. Ah, vabbè. Ma le piccole e medie imprese, che appunto lei in qualche modo vuole rappresentare, dove pensa che trovino la manodopera flessibile che serve per sopravvivere e per avanzare quando la congiuntura lo consente, se non tra gli immigrati? No, ci sono 4 milioni di italiani disoccupati. Prima sì. Gli italiani per il lavoro. Sì, e quante la trovano ce ne sono fra gli adesso immigrati? In quella Lombardia sua non ce ne sono? A voglia, a e voglia. Non servono a quelle piccole e medie imprese? No, gli italiani... pagati. No, stiamo parlando degli immigrati sottopagati. No, gli, se, sottopagati sì, è assolutamente. È appunto il problema degli immigrati è che sono disposti a essere schiavizzati per qualche euro all'ora. Ma quanti sono gli italiani che non vogliono più fare i lavori che ci sono? Zero. Zero? Io ho la fila di curricula di italiani che farebbero gli scaricatori dalla notte alla mattina, la barzelletta secondo cui io gli italiani... Io ho la fila di ragazzi che ci raccontano la storia di persone che a Torino non avrebbero fatto quasi niente, in Australia lavano i piatti. C'è la di tutto. Sfido, c'è secondo di me tutto. Ci arrivano in onda 1000 richieste di italiani disposti a fare qualsiasi lavoro a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non c'è bisogno della concorrenza sleale di immigrati sottopagati. Senta, la scorsa settimana lei ha incitato i camionisti a bloccare le autostrade per ridurre i pedaggi. Ha funzionato? No? Assolutamente sì, quantomeno abbiamo spiegato che sulla Milano-Como, sulla Milano-Varese ci sono rincari dell'11%, mentre ci sono altre autostrade in Italia gratis. E ve le hanno abbassati? Stiamo lavorando per avere quantomeno per i pendolari una riduzione del 20%. Quello che ha detto il ministro Lupi. Assolutamente sì. E se servirà rioccupiamo un'altra volta. Ma state trattando con i concessionari o col governo? Col governo, perché è il governo che dà le autorizzazioni, purtroppo. Senta, domani sera voi, no, domani tutto il giorno sarete davanti alle carceri. Per dire che cosa esattamente? Per dire che chi sbaglia paga, per dire che uno svuota carceri che fa uscire migliaia di persone che si sono macchiate anche di reati infami come prostituzione minorile, pornografia, furto, truffa, non si può fare uno sconto di pena a persone in galera per questi reati. Quindi il presidente Napolitano che ha fatto la richiesta esplicita alle Camere ha sbagliato? È un insulto agli italiani. Cioè, di solito fuori dalle carceri ci vanno i radicali o altri a protestare per i diritti dei carcerati. Per carità di Dio, tutto è lecito. Noi domani siamo fuori da 40 carceri per protestare per i diritti dei non carcerati. Sono fuori non carcerati. Senta, ma perché quei carceri li avete scelto? Come li avete sono scelto? 40, li abbiamo scelti dove tutti, siamo presenti quindi. Noi. 40 carceri al nord, di più non ce ne sono. Ah, tutti al nord sono? Sì. E quanta gente si aspetta? Ma a me bastano 10-20 persone con dei numeri, però, che diffonderemo anche via internet, certo. Perché ieri il Corriere ha messo in prima pagina, c'è anche sul Sole, un furto ogni minuto. Sì, vero. E tu come deterrente fai uscire quelli che rubano? Ma non è detto che siano quelli che rubano che escano, cioè. Se io e lei non siamo dentro, evidentemente c'è un motivo. Mi sembra un po' demagogico. Senta, qual è la qualità che lei si riconosce, sa di avere? La costanza e la coerenza. Non mi spaventa il lavoro e non mi spaventano le battaglie controcorrente. Senta, ma mi dica una cosa, è un difetto invece, un vero difetto? No, guardi, tutti dicono c'ho un difetto, poi alla fine mi dicono una qualità. No, un vero difetto. La testardaggine. A volte mi incazzo quando mi danno torto. A volte mi dà fastidio. Ragione, sì. Un po' dittatore. Sì, a volte mi dà fastidio, però io poi ringrazio quelli che mi danno torto perché prima mi arrabbio, ma poi magari ci penso, vede e magari hanno ragione. Vede che è una qualità. Non si riesce a trovare il difetto. No, sono milanista, ne ho tanti di difetti. Ecco lì dove vi incontrate con Berlusconi. Senta cosa dice il Papa sul dovere di accoglienza. Voglio ringraziarvi una volta in più a voi lampedusani per l'esempio di amore, per l'esempio di carità, per l'esempio di accoglienza che ci stai dando, che avete dato e ancora ci dai. Il Vescovo ha detto che Lampedusa è un faro, che questo esempio sia faro a tutto il mondo, perché abbiano il coraggio di accogliere a quelli che cercano una vita migliore. Ha torto, il Papa. Ci vogliono delle regole e dei limiti. Ha torto, insomma. Il Papa fa il Papa. No, il Papa fa bene a dire questo. Io faccio il politico. Io sì, io credo in Dio e dono sangue. E quando dono sangue, lei lo sa, lo faccio anonimamente. La mia sacca di sangue può andare in un italiano, un clandestino, a un ladro, a un truffatore. Lo dono da volontario. Da politico mi pagano per risolvere i problemi. Quindi l'accoglienza senza limite e senza regole è follia. Senta, Renzi dice che lei non vuol, insomma, se lei non vuol parlare della legge elettorale, chi se ne frega. Ma Renzi è strano, perché neanche ci invita e dice che non ci andiamo. Ah. Quindi io ci vado anche domani mattina a parlare di legge elettorale. Ah, quindi però, se la invita ci va. Beh, ma se la canta e se la suona. Dico, sì. Sì, assolutamente sì. Bene. Senta, ma crede che Renzi e Berlusconi lo faranno l'accordo sulla legge elettorale? Penso che faranno di tutto per mettersi d'accordo, sì, perché hanno reciproca convenienza. E ci riusciranno? Lei li conosce? Lei conosce? Secondo me no. Berlusconi. Secondo me no. Perché parlano a nome loro e non a nome di tutti i parlamentari che invece hanno in Parlamento. Ah. Interessante. Senta, Correzzi, comunque una cosa, almeno in comune ce l'avete, il nome, Matteo. Siete 21 due settembre, Matteo, e due nuovi Matteo, ecco. Ma non c'è nient'altro che vi avvicina? Ma l'età. Senta, sulle unioni di fatto però la pensate più o meno allo stesso modo? No, non è una priorità. Lui dice che è una priorità, per me non è una priorità, lo dico da convivente. Ma la pensa come lui? Tolto il fatto che sia una priorità. Il riconoscimento di alcuni diritti, assolutamente sì. Il matrimonio però è il matrimonio, lo dico da divorziato. Il matrimonio è una roba. Il riconoscimento di diritti civili è un'altra roba. E da sui diritti gay? Anche lì, non parliamo di matrimonio, non parliamo di adozione di figli, parliamo di riconoscimenti di diritti. Senta, comunque Renzi dice che per ora l'unico Matteo che vince in Italia, se avete cominciato tutti e due da poco, è il Matteo di Terence Hill, che ha fatto 9 milioni di spettatori. Pensa anche lei che è quello che vince meglio. È vero, adesso. Anche se io Terence Hill lo vedo sempre con Bud Spencer, da solo non mi viene. Non ce la fa. Però 9 milioni di italiani. Chapeau. 9 milioni di italiani, molti, prevalenza, delle sue terre giovani, lo stupisce. Perché hanno bisogno di speranza. Ah, esatto. Sono contento. Ah. Senta, ma lei è consapevole del fatto che i media in un tempo brevissimo omologano tutte le provocazioni? Voi ne avete, siete maestri nell'arte, insomma Bossi l'ha insegnato molto, e sono più forti della politica. Lo omologano, sì. Le tritano, ecco. Quindi non bisogna mai essere scontati, bisogna raggiungere dei risultati concreti. Dei risultati. Assolutamente. Allora, i suoi risultati sono sapere dove va la Chienge, no, e respingere gli migranti. Tutto della qua. Chienge me ne frego. Il mio risultato è la legge che aiuta i genitori separati e divorziati in Lombardia con 400 euro al mese. Questo è un risultato concreto. Senta, ma lei appunto un po' l'ha detto, non pensa che la gente sia un po' stufa della violenza, dei gesti, delle provocazioni, voglia un po' di serenità e di speranza anche nella difficoltà che c'è in questo momento per tutti? Assolutamente sì, con risposte concrete, con risposte assolutamente concrete. Ad esempio sugli asili nido, stiamo preparando una legge nazionale che ci avvicina al mondo civile. E anche Renzi asili nidi. Però bisogna dire anche dove prendi i soldi. Regione Friuli, i soldi li ha trovati, ci sono. Ha voglia che ci sono. Nella regione. Senta, le faccio un'ultima domanda. Tra un anno, sì, se per caso saremo di nuovo qua, cosa vorrebbe potermi dire? Vede Minoli? Vede Minoli cosa? Vede Minoli che con la nostra testardaggine abbiamo ridotto l'IRAP. Una cosa concreta. Uno dice la rivoluzione, la pace nel mondo, la fame. Abbiamo ridotto l'IRAP. Abbiamo tagliato l'IRAP del 50%. Del 50%. Appuntamento fra un anno con Salvini con l'IRAP ridotta del 50%. No, questo è quello a cui lavorerò. Mi piacerebbe. Mi grazie, piacerebbe. Auguri. Grazie auguri, a voi. Grazie. Mix 24. Non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai. L'amore è una cosa bella, più del sole da caro. Pietrangelo, buongiorno. Lo so che sei fuori, che sei in partenza, ma ti sfrutto. La canzone è questa perché? Allora, la canzone è questa perché? Perché già ieri abbiamo iniziato un quiz e farei ancora una volta un quiz. È un importante filosofo che canta, adesso è in libreria con Variazioni e Capricci Morali, Non dimenticare le mie parole, cantato da chi? Voi avete indovinato? I telespettatori, i nostri radioascoltatori sono invitati a telefonarci. Variazioni e Capricci Morali è il titolo. 800 24 00 24, per chi lo sa, anche per chi non lo sa, numero di SMS 349 238 6666. Hai sentito l'intervista di Salvini? Purtroppo no. No, Mario, che titolo fai dell'intervista di Salvini? Un Matteo tira l'altro. Beh, è il momento, no? È il ha detto che ci vuole stare. Sì. Senti, Cosa bolle? Adesso lo vediamo. Allora, è la sigla che non arriva mai. Perché... No, perché sta bollendo. Cribio, certo. Ma cosa fate? Senti, hai sentito? Cribio, ma cosa fate? Senti. Cribio, ma cosa fate? E cosa fate? Bisogna capire che cosa fa il PD. Perché ieri c'è stata una direzione importante e ha sancito che il governo è figlio di nessuno. L'ha detto Fassina, non lo dico io. E se non cambiano le cose, in 4 mesi saremo spazzati via. L'ha detto Renzi. Domani dovrebbe esserci l'incontro con Berlusconi sulla legge elettorale. Metto un dovrebbe perché la discussione è stata molto calda in alcuni momenti. Ho sentito anche un interessante intervento di Gentiloni. Paolo Gentiloni. Sì, buongiorno. Senta, so che ha poco tempo perché parla la Di Girolamo, no? Credo. Sì, ecco. Credo di sì, forse già sta cominciando. Allora c'è questo incontro, ci sarà, sì, domani. Ah, domani non lo so, ma domani, dopodomani fa lo stesso, sì. Ci sarà. Lunedì Renzi è ricomvocato alla direzione del PD. E quindi qualcosa dovrà dirvi. Senta, ma la cena di ieri sera, Letta Renzi, mi sembra che le distanze aumentano invece che diminuire. Ma io non ho sentito Renzi. Vabbè, però c'ha un'opinione. Comunque non c'è dubbio che insomma, come spesso succede nei partiti, oltre a esserci competizione, deve esserci anche una solidarietà di fondo, se sei nello stesso partito, no? Quindi e loro devono troveranno un mix tra queste due cose, è la storia della politica. Senta, ma come si fa, Gentiloni, come si fa? Certo competono. Certo, questo è sicuro, competono di sicuro. Però stanno nello stesso partito. Stanno nello stesso partito ma vogliono fare la stessa cosa. Senta, più o meno, come si fa a dire... Non si può fare in due. No, non si può fare in due, Presidente del Consiglio. Senta, ma come si fa a dire... che non bisogna parlare con Berlusconi dopo aver fatto il governo con Berlusconi. La parte del partito che non vuole è un po' strabica forse, no? Ma infatti io l'ho trovato un po' pittoresco, nel senso che mi pare che abbia fatto bene ieri Renzi a dire che quando Berlusconi è stato condannato non ha visto ministri dimettersi, no? E appunto. Adesso dire che lui non lo può incontrare per parlare... Sembra un po' eccessivo. Senta, ma... Non è possibile che Letta alla fine decide di dimettersi e il caso Di Girolamo innesca il detonatore, fa da detonatore? Ma io credo che non sia lo scenario che abbiamo davanti, se dire cose impossibili per radio poi uno può essere anche... No, penso che non è questo lo scenario che abbiamo davanti. È uno scenario difficilissimo in cui certamente il governo dovrebbe... come si dice in gergo cambiare passo, come si dice a Roma, darci una mossa ma darsi una mossa senza cambiare ministri è un po' difficile, no? Ma il problema non è tanto nei ministri, è nella natura in sé del governo. Allora è Letta che non vuole darsi una mossa ancora, perché se non sono i ministri resta il Presidente del Consiglio. Ma è un governo, inevitabilmente un governo di coalizione un po' più tecnico che politico oramai, no? In cui la parte di destra si è assottigliata, l'opposizione si è rafforzata, Berlusconi, Grillo, la Lega, e quindi la preoccupazione del PD è che se non c'è questo... Ma lei come questo vota? Cambio, noi bolliamo un po'. Lei come vota non sul è un caso? Governo nostro, ma i cittadini ve lo attribuiscono, e quindi Renzi ha fretta per forza. Senta, ma lei sul caso Di Girolamo come vota? La sentiremo e poi si riunirà il gruppo del PD. Ma lei ha fatto un'intervista ieri, diceva se mi convince, che cosa deve dire per convincerla? Insomma, io temo che non sia facile, almeno per quanto mi riguarda, essere convinto. Perché io sono sempre stato convinto che non c'è una coincidenza tra dinamiche giudiziarie. Cioè la politica è una cosa e la giustizia è un'altra, dice lei. Senta, ma... Io penso che i ministri debbano dare il buon esempio, e questo non mi è sembrato un buon esempio. Ma le faccio una domanda provocatoria: la possibilità di un governo Renzi subito non c'è? Ma io penso che D'Alema abbia ricordato più volte in questi anni che fece un grande la sua infelice avventura nel sostituire Prodi, fece un errore ad andare a Palazzo Chigi senza passare per le elezioni. Quindi io penso che Renzi non abbia voglia di fare un errore, e allora legge elettorale, elezioni a maggio, insomma. Io non ne sono sicurissimo, cioè la cosa che mi preoccupa semmai è il contrario, una specie di vocazione al suicidio dei politici, per cui dopo la sentenza della Corte Costituzionale qualcuno dice non cambiamo la legge elettorale. Quella sarebbe il suicidio vero. E tiriamo a campare. Vabbè. C'è una legge che non piace a nessuno. È già finita, è già finita la politica del tirare a campare, la gente non la sopporta più. Questo è in un dato. Giro per l'Italia, paese, forse non nel palazzo ancora. Bruttissima notizia. Allora lascio andare a fare il suo dovere, votare sulla, e la ringrazio sulla, grazie a voi. De Girolamo, oggi grazie. Comunque non votiamo. Non vota, sì, non votate. Sì, l'ascoltate, vabbè, ok, d'accordo. Grazie mille. Mille Mario 800 800 24 0024, sms 349 238 6666. Non è che mi ha rassicurato molto, no, Gentiloni, è uno scenario un po' paludoso. Dreams are my reality, the only kind of è sempre il tempo delle mele, caro Minoli. E per fortuna che abbiamo la telenovela francese a tenerci lieti in queste ore. È il tempo di Normal. Hollande e Gaillet pare si amino da 2 anni. La cosa fa la sua comparsa sui giornali francesi e quindi ha la France, Douce France. Pare ci sia anche un secondo nido d'amore. E intanto, due. Uno non basta mai, meglio averne due, no? E intanto, attenzione, io ripeto che Hollande ha fatto la svolta politica, più liberale, meno tasse, voto di fiducia in Parlamento, cioè, da passata affrontare. Quasi un po' nascosta, coperta dallo scandalo, però, dalla sua avventura. Però la sinistra francese è molto in crisi, perché certo, ovviamente hanno fatto una campagna elettorale che era tutto il contrario. Le tasse, l'uguaglianza, i diritti. C'è molta retorica, però è vero che quello era un programma alternativo. Mario, non facciamo solo risentire la canzone, perché i nostri ascoltatori vogliono un reminder. Sentiamola però. Grazie. È una cosa bella, più del sole da calo. Aspettiamo risposte. Andiamo avanti intanto. No, ti segnalo che la De Girolamo che deve parlare. Sì. L'aula è quasi deserta. Caso politico. No, che non è. È quasi deserta. L'aula è quasi deserta. Ma perché sono molto interessati a tutto questo, come vedi? È per quello che io dico che tutto strumentale. Sì, però non mi rassicura niente, perché se l'aula è semideserta perché è venerdì e hanno finito di lavorare. Se ti guardi il calendario dei lavori della Camera, c'è un'interrogazione oggi, è questa roba qua. E non so, vorranno continuare così a lungo. Ma che cosa vuol dire per te? Ha detto una cosa adesso, Gentiloni, preoccupante. Il palazzo forse, esatto, vuole tirare a campare. Sì, ma questo, ti faccio questo esempio: ti ho detto che l'aula è appunto semideserta e ti dice tutto. Cioè, sulle pagine dei quotidiani, nei TG, il caso De Girolamo ha tenuto banco. Evidentemente, però, al Parlamento interessa assai poco, forse niente, forse non lo so. È abbastanza singolare come modo di comportarsi. India? No. Abbiamo due, non India. Vera e Salvatore, che hanno telefonato tutti e due quasi insieme, Vera un po' prima, insomma sentiamoli un attimo, qual è la risposta? Vera? Vera, ciao, sono Vera. Sì, Vera. Sgalambro, il filosofo. Esatto. Salvatore, anche tu eri sulla risposta? Sì, Manlio Sgalambro, che collabora con Battiato, esatto, da qualche anno, e ha cantato questa canzone, però scrive anche molti testi di Battiato. Sì, vero. Pietrangelo, hai visto? Sì, eccomi, sì, sì, anche l'architetto Alessandra Morra aveva, una nostra ascoltatrice. Ah, ok, iniziato. Vabbè, quella sarà stata una tua amica, dai, no, su. No. Come? Senti, ok. Allora grazie a voi, grazie a Pietrangelo, buon viaggio, so che devi andare a Catania. Mix 24. Che cerchi di passare per uno con una vista da 10 decimi quando sei cieco come una talpa. Non è affatto vero che voglio passare. Sì, signore. La tua è una fissa, proprio come quando cercavi di passare per un bianco. Vuoi dire che non sono bianco? Ma è scandaloso! Ma come sarebbe non sono bianco? Allora si può sapere perché non me l'hai detto prima? Tu, che sei mia sorella! Adesso basta! Non guardarmi, non ti sento, era Richard Pryor, grandissimo monologo sulla metropolitana, non dirmi che non sono bianco, non lo ero ovviamente, non ci vedeva, per dire che Google fa le lenti a contatto, fanno ormai sono, adesso, di tutto, sì, di tutto con dati biometrici e così via per misurare il diabete, quindi è molto interessante. Roba che serve a me. L'high tech. Ah, bene. Sono le 9:48 e 7 secondi. Il professor Simonelli. Professor Simonelli, dove era il canone ieri sera? Buongiorno. Allora, cominciamo a dire che tutto dipende da una notizia che stiamo aspettando in questi minuti. Quanto ha fatto Don Matteo ieri sera? Ancora presto. Però siccome, come dice lei, quello di Don Matteo non è un pubblico, è un partito, allora le variazioni di un partito sono fondamentali. Quindi se oggi Don Matteo è salito, il governo si rafforza. Se è sceso, il governo si indebolisce, o al contrario, non lo so, devono dire lì i politologi. Però, a parte quello, dov'era? Ma direi che ieri sera il canone l'ho trovato in tarda serata nel programma di Linus, che si chiama Il Grande Cocomero. E che è un programma di interviste a cui mi sono accostato con qualche sospetto, perché ce ne sono troppi di programmi di interviste. Sì. E che insomma, all'inizio non mi aveva particolarmente convinto nella fase prenatalizia, però a farci l'abitudine, come si dice, è un programma che rivela delle qualità interessanti. Sono interviste molto diverse da quelle di cui lei è un maestro, ne ho appena sentita una con Salvini, queste interviste che fa lei molto molto secche, molto decise, molto incalzanti. Sono interviste piuttosto morbide, con una certa complicità con l'intervistato, però da cui vengono fuori dei ritratti anche interessanti. Certo. Ieri sera, per esempio, è venuto fuori un ritratto molto interessante di questo personaggio del mondo sportivo, che oggi è però all'onore delle cronache per la sua vittoria in Ballando con le Stelle, che è Elisa Di Francisca, che insomma ha risposto molto spiritosamente, ha sostenuto tutte le battute più o meno maliziose, ma poco maliziose in realtà, dell'intervistatore, ha fatto ballare il tango a Linus. Quindi insomma, di tutto un po'. Come non ho sentito? Di tutto un po'. Di tutto un po', poi è arrivato anche Virzì. E siccome anche voi ne avete parlato, molto. Insomma, alla fine. Il film comunque sta avendo molto successo. Sì, il film. Ai botteghini. Io posso fare una malignità? Al volo! Io ho il sospetto che Libero e il Giornale abbiano delle partecipazioni nell'aumento degli incassi di Virzì. Hanno fatto una bella campagna. Altrimenti non si spiegherebbe la polemica. Era il cinema però che lo produce. Sì, va bene. Senta. Ottimo film, secondo me, ottimo film. Se l'avessero fatto gli americani saremmo qui in ginocchio. Adesso, senta. Grazie, professore. Professor Simonelli, lei lo sa che comincia The Apprentice. Il programma di Briatore, noi professore lei lo guarda? The Apprentice? Lo guardo per dovere e mi indispettisco molto. Ma che noioso, che professore. Io invece ho fatto un'intervista al vincitore dell'anno scorso, Francesco Menegazzo, che adesso se ne sta al sole del Kenya. Quindi merito una promozione, sto sul pezzo. Brava Sara. Ho tempo per lanciare un quiz? No, sentiamo l'intervista. Francesco Menegazzo, hai vinto la prima edizione di The Apprentice. Tu prima lavoravi come trader bancario, ma perché allora hai deciso di partecipare? Perché lavorare come trader vuol dire vedere i numeri, vedere il mondo attraverso le notizie che passano su Bloomberg e stare davanti a un computer 12, 13, 14 ore al giorno. E non era quello che volevo vedere le cose quando accadono. Volevi passare dalla finanza a quelli che le cose le fanno? Le cose, assolutamente. Senti questo file. Allora, una giacca vista culo. Cioè, ma sei ridicolo. Ti ho portato da Preziosi, il primo industriale nel settore. Ti presenti vestito come un clown. A casa tu ti puoi vestire anche come un saltimbanco, metterti la patatina rossa, ma tu non puoi andare in giro così. Tu pensi di essere figo, ma non puoi presentarti così. Se volete un giorno uno di voi lavorerà per me, così tu non entri neanche nel portone. Sei fuori. Francesco, ma avevi paura di sentirti cacciare in quel modo? Sì, assolutamente. Non si può assolutamente negare. Anche perché quando elimina qualcuno non è che lo elimina così, capito? Lo distrugge da un punto di vista professionale in maniera chirurgica. Perché le cose che dice non sono mai cose dette così per lo spettacolo, becca proprio il punto, ti becca sul vivo, quindi le critiche che ti fa dal punto di vista professionale sono critiche feroci ma giuste e che ti demoliscono da quel punto di vista. Infatti quello che non ha la consapevolezza nessuno partecipando a questo programma rispetto a, non so, a fare il cantante, a cucinare, è che qui se fai degli errori su quella che è la tua professione, puoi veramente risultare ridicolo sulla cosa più importante che abbiamo dopo la famiglia e la salute, ovvero sulla professionalità. Lui è così anche nella vita. Sì, sì. Torniamo indietro, cioè dopo che è finito il reality e tu hai, tra l'altro appunto come abbiamo detto, hai vinto, hai iniziato a lavorare con Briatore. Sì, nei suoi uffici a Monte Carlo. Che cosa stai facendo adesso? Beh, all'inizio mi occupavo principalmente di aspetti, per così dire, finanziari. Poi invece, mano a mano che siamo andati avanti, il progetto del Kenya mi ha sempre coinvolto di più, perché era un progetto che richiedeva veramente molte persone che ci lavorassero sopra. Che progetto è? In Kenya abbiamo costruito il Billionaire Resort, che è un resort con 24 appartamenti di lusso, che è proprio sull'Oceano Indiano, molto bello, con un ristorante dentro, il Billionaire Grill, che è un ristorante di livello, un po' come Cipriani che c'è a Porto Cervo, tutti i servizi al massimo livello, quindi siamo molto felici. Senti, e che cosa hai rubato da Briatore, dal suo modo di fare l'imprenditore? Lui lavora sempre e poi vede tutto. Io faccio sempre l'esempio di quelli che hanno il bagno a Rimini. Quello che c'ha il bagno a Rimini sta seduto alla cassa, ma se sull'ultimo lettino in fondo alla sua spiaggia, 500 metri più giù, succede una cosa, lui non si sa come se ne accorge. Briatore è come i bagnini di Rimini, però su tutto. Cioè, quindi se lui è seduto dentro il suo appartamento, succede qualcosa in spiaggia, succede qualcosa alla reception, non si sa come, lui riesce a captarlo immediatamente. Senti, che cosa veramente non si deve fare con un capo come Briatore? Non bisogna sbagliare, cioè se tu fai il 99% con Briatore sei fritto, tu devi fare il 100% sempre, se no sei fuori. Il 100% sempre, se no sei fuori, assolutamente. L'ultima domanda, inizia appunto il 17 gennaio, va in onda di nuovo la seconda edizione di The Apprentice, che consigli dai ai nuovi concorrenti? Di non farlo arrabbiare, sai, con le telecamere, con la paura di sbagliare, col discorso che sei sul gioco, per cui veramente fai il pirla spesso e volentieri e lui non ci mette niente a dirtelo. Sentirsi come se fossero nel mondo reale, pensare il meno possibile alle telecamere, al gioco. Insomma, prendere sul serio il reality. Ti ringrazio. Ciao, grazie.